Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Addio a Raimondo Vianello, gentiluomo della TV italiana. Un vulcano lascia terra all'Europa, la cenere crea caos per i voli. A breve l'incontro Berlusconi-Fini per il Premier, il secondo round del dopo elezioni. Monito della Banca Centrale Europea, la disoccupazione aumenterà ancora. Quando muore un personaggio noto, va in onda il solito coccodrillo. Quel servizio che i giornalisti scrivono con un certo cinismo, ma anche senso pratico, quando l'uomo è ancora in vita, perché per tutti non si sa mai. Ma non serve raccontare la storia di Raimondo Vianello, perché è stato per più di 50 anni nelle nostre famiglie. Sono l'onorevole Molfetti, della sinistra, della tendenza di destra, del gruppo di centro del mio partito. Io, dottore, ho un difetto di pronuncia. Fi or si iva ilato. Che schifo. Qualcuno lo ricorda nei leggendari sketch in bianco e nero. I più giovani, invece, erano di casa a casa Vianello. Ma che ti sta succedendo? Di cosa parli? Raimondo, tu hai un amante. Ma magari. Raimondo Vianello era così come lo vedevamo sullo schermo, ricorda Pippo Baudo. Ogni volta era una battuta, cioè non si chiedeva una telefonata senza una battuta di Raimondo. Come se avesse il dovere di divertire le persone, di lasciargli il sorriso in bocca, insomma, ecco, un dovere etico. E questa è la grande forza dell'uomo. Ma Raimondo era anche un grande appassionato di sport e aveva portato il suo garbo disincantato anche come conduttore sportivo a Pressing su Italia 1 con Massimo De Luca. Fu davvero il primo a utilizzare quel tono distaccato, quell'ironia, quell'eleganza che gli erano proprie, per impostare un racconto diverso. So quanto ci tenesse, perché negli anni poi questa sorta di primato è stato invece attribuito ad altri, ed è giusto invece riconoscere che fosse stato il suo. Ora gli amici, come Maurizio Costanzo, si preoccupano per Sandra. Io mi auguro che Sandra, che non sta bene, abbia la forza di sopravvivere, perché è il pensiero che più mi ossessiona. In quanto, penso che ora starà bene con Tognazzi. Marta Cagnola, GR24, il sole 24 ore. Il nostro saluto a Raimondo Vianello, è morto questa mattina a Milano, avrebbe compiuto tra poco 88 anni. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati, ora l'edizione del nostro giornale con le altre notizie. E cominciamo con il caos nei cieli europei. La causa è un vulcano, Anna Rita D'Ambrosio. Sì, sono gravissime al momento le conseguenze sul traffico aereo internazionale dopo l'eruzione del vulcano islandese Fimvordals. Dopo la Gran Bretagna, anche Norvegia, Svezia e Danimarca hanno chiuso lo spazio aereo fino alle 20 almeno, giudicando troppo rischiosi i voli a causa delle nuvole di cenere emesse dal vulcano. Quali le conseguenze in concreto? L'abbiamo chiesto a Fabio Berti, comandante pilota Alitalia. La cenere vulcanica è molto pericolosa per il volo, perché ingerire cenere vulcanica può provocare lo spegnimento dei motori. Ci sono stati casi eclatanti anche in Asia, dove addirittura un 747 ha avuto lo spegnimento di 4 motori, e poi piano piano nel corso dell'emergenza sono riusciti a metterne in moto 2 e a portare a coprimento il volo. Pur capendo che comporta forti disagi, va compreso che è assolutamente necessario in queste fasi, nelle fasi di eruzione, evitare la nube, che tra l'altro vorrei dire si espande molto velocemente, perché i venti in quota sono molto forti, e quindi anche se il vulcano è localizzato in un punto preciso, l'area può essere molto vasta. Dunque, lo avete sentito, come ha detto Berti, è una chiusura obbligatoria, una chiusura però che ha spaccato l'Europa, perché tutto il nord Europa è bloccato, è difficile, quasi impossibile da raggiungere. L'aeroporto che ha subito più disagi è stato quello londinese di Heathrow. Già questa mattina aveva cancellato 100 voli, e pensate che è il primo scalo aereo mondiale in termini di passeggeri, quindi questo vi fa capire le conseguenze in tutta Europa. Dalle 13 lo scalo è chiuso. chiuso e si sta valutando, si sta decidendo proprio in questi minuti se chiudere o meno anche l'aeroporto di Bruxelles. Le compagnie totalmente ferme sono la British Airways e la Ryanair. Quando si dissolverà la nube? È difficile dirlo. Ora sulla zona i venti sono scarsi e perciò il blocco è totale. Nelle prossime 24 ore però i venti dovrebbero aumentare, quindi forse domani in serata tutto potrebbe essere risolto. Per il momento ti restituisco la linea. Grazie Annalisa D'Ambrosio, naturalmente tutti gli aggiornamenti istante per istante su Radio 24 nel corso della giornata. Ora andiamo invece però a Roma. Ieri c'è stato l'incontro tra Berlusconi e Bossi. In questi minuti dovrebbe iniziare l'altro atteso faccia a faccia per il Premier, quello con Fini, con molte aspettative. Elisabetta Fiorito. Un incontro scontro come lo sono ormai da tempo quelli tra il premier Silvio Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini. Anna, il presidente del Consiglio è atteso qui a Montecitorio per chiarire e cercare l'accordo con l'alleato del PDL sempre più distante, ad acuire i contrasti la posizione della Lega che rivendica le banche del Nord e la premiership per il 2013, una golden share che non piace a Fini, anzi secondo alcune indiscrezioni il presidente della Camera pensa a una nuova formazione per le prossime elezioni politiche. Che a Fini non piaccia l'egemonia della Lega nella coalizione di governo non è una novità, ma adesso a complicare la situazione ci si mettono anche le riforme istituzionali. Bossi è sceso in campo insieme a Berlusconi contro il doppio turno, sostenuto invece da Fini qualora si scegliesse il semipresidenzialismo alla francese. Il dialogo con l'opposizione si allontana, mentre le difficoltà sembrano essere all'interno della stessa maggioranza. Di questo e di tanto altro ancora parleranno Fini e Berlusconi nel pranzo di Montecitorio che sta per iniziare qui alla Camera. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E aspettando le parole di Berlusconi e Fini, torniamo sulla richiesta ieri di Bossi. Banche del Nord alla Lega, dice il senatore. L'analisi allora di Marco Alfieri del Sole 24 Ore. Abbiamo i comuni e le province. È chiaro che anche le banche più grosse del Nord avranno uomini nostri ad ogni livello. L'ambizione fa certo effetto, perché a parlare questa volta è direttamente Umberto Bossi. Parole forti le sue, ma non inattese per una Lega Nord ormai troppo egemone per disinteressarsi di quelle fondazioni bancarie e grandi azionisti dei big del credito, Intesa San Paolo e Unicredit. Per il sindaco di Verona, Flavio Tosi, le fondazioni devono tornare sotto il controllo del territorio, tassativo. Non potendo espugnarle subito, causa meccanismi di rinnovo bizantini, il Carroccio intensificherà per ora la sua moral suasion, in attesa dei grandi rinnovi del 2012-2013. Nel frattempo, nel Piemonte Verde di Cota, qualcosa comincia a muoversi. La Compagnia di San Paolo, prima azionista di Intesa San Paolo, ieri sera ha indicato il tremontiano e gradito al Carroccio Domenico Siniscalco al vertice del Consiglio di Gestione di Cadesas, al posto dell'inossidabile Enrico Salza, una prima avvisaglia in vista dei prossimi rinnovi. Marco Alfieri, GR24, Il Sole 24 Ore. E parlando di riforme, una nuova tappa dei giornalisti in cammino in Piemonte per i 150 anni dall'Unità d'Italia. Sesto giorno di marcia dei giornalisti camminatori, i Piemonte Patriots, partiti da Torino. L'incontro con i colleghi di Italica 150, guidati dallo scrittore Enrico Brizzi, per la camminata da 2191 chilometri dall'Alto Adige alla Sicilia in occasione dell'anniversario dell'Unità Italiana, si avvicina. Da ieri siamo nel cuore della Lomellina, terra pavese di riso e risorgimento. Io ho fatto una puntata a Vercelli con mezzi meccanici, quindi ho recuperato la piccola carovana a Valeggio. Non è quella Valeggio famosa per la battaglia che si trova in provincia di Verona, ma nei dintorni in Lomellina non si contano i luoghi risorgimentali. Montebello, palestro con la torre campanaria da cui Vittorio Emanuele II assistette allo scontro vittorioso dei franco-piemontesi contro gli austriaci nel 1859. Gli zuavi morirono a centinaia attaccando allo scoperto, ma riuscirono a sfondare il fianco sinistro degli austro-ungarici, aprendo così la strada per Milano. Tra poco arriveremo a Groppello Cairoli, patria dei cinque garibaldini eroi. Benedetto, l'unico superstite, fu presidente del Consiglio, con fortuna incerta, a conferma che non sempre gli eroi in guerra sanno essere buoni statisti in pace. Ma la Lomellina è anche la fascinazione delle terre d'acqua, delle risaie a perdita d'occhio e degli aironi che cacciano le loro minuscole prede sui solchi ancora umidi. E poi c'è l'oggi, la Lega e i furti nelle case isolate, Garlasco e i suoi fantasmi, la raffineria Agip di San Zaro dei Burgondi, che nella notte illuminata appare come un fantastico Luna Park. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Dorno. E le novità ora per i medici italiani in Afghanistan. Attilio Iannucci, inviato del Ministero degli Esteri a Kabul, è considerato uomo d'azione. A poche ore dal suo arrivo le agenzie battono la notizia che 3 operatori italiani di emergency arrestati sabato saranno trasferiti dal carcere di Helmand a Kabul. Iannucci li potrà incontrare già domani. Oggi consegnerà a Karzai la lettera di Berlusconi nella quale il premier chiede quale paese alleato il rispetto di tutti i diritti, compresa la presunzione di innocenza. Sarebbe intanto per essere liberato uno dei 3 operatori di emergency, Matteo Pagani. Le accuse nei confronti del tecnico della logistica dell'ospedale di Lashkargah sarebbero più leggere rispetto a quelle che riguardano gli altri 2 medici, Marco Garatti e Matteo Dall'Aira. Ma quali sono le accuse mosse ai 3 italiani? Sono accusati di detenzione consapevole di esplosivi e di armi da guerra e di essere coinvolti in un complotto in 2 fasi che prevedeva l'esecuzione di un attentato contro civili e in una seconda fase un attentato suicida contro il governatore provinciale dell'Helmand durante una visita organizzata nell'ospedale di emergency. Non solo, ieri l'agenzia di stampa afghana Patchwork ha trasmesso un servizio dal titolo Medico italiano implicato nell'uccisione di un giornalista, nel quale si sostiene che Garatti sia stato complice dell'uccisione di Naqshbandi, giornalista e interprete dell'inviato di Repubblica Daniele Mastrogiacomo sequestrato nel 2007. Si sostiene inoltre che il chirurgo di emergency attirò Mastrogiacomo a Lashkargah in collusione con i talebani che lo sequestrarono e che addirittura intascò $500,000, accusa improbabile visto che Garatti all'epoca si trovava in Sierra Leone. Cristina Carpinelli, GR24, Sulle 24 Ore. Dopo i bambini senza mensa, quelli che vanno a piedi. Per 16 bambini a Verona il servizio scuolabus è stato sospeso, i genitori non hanno pagato la retta. In bilico ci sono altri 93 casi. E sulla vicenda di Adro, il nostro sondaggio di questa mattina. Per alcuni è stato un gesto di bontà da applaudire, per altri solo un atto di esibizionismo e di propaganda. L'imprenditore di Adro, nel Bresciano, che ha pagato di tasca propria i debiti delle famiglie morose con la mensa scolastica, ha spaccato l'opinione pubblica, anche perché di mezzo ci sono i bambini ai quali l'amministrazione comunale non ha più garantito il servizio pasti. Il benefattore ha accompagnato l'assegno con un atto d'accusa contro l'indifferenza dei suoi compaesani, della politica, di tutti coloro che dice si sono scordati le nostre umili origini. Voi come giudicate questo gesto? Vi abbiamo chiesto oggi nel nostro sondaggio. Vi siete divisi? Il 53% di voi rimane comunque dalla parte dell'imprenditore. Chi è arrabbiato con lui è il sindaco di Adro, Oscar Lancini, della Lega. I bambini hanno dei genitori e i genitori hanno la patria potestà dei figli e rendono conto i genitori dei figli, non il sindaco, non l'amministrazione, non la gente di Adro e quel signore che ha scritto quelle cose su quella lettera. Guardi che qui si deve solo vergognare perché ha usato una situazione di bambini per far propaganda politica. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:18, le notizie principali di GR24. L'addio a Raimondo Vianello, gentiluomo della TV italiana, è morto questa mattina a Milano. Un vulcano lascia a terra l'Europa, la cenere crea caos per i voli. A breve l'incontro Berlusconi-Fini per il premier, nuovo faccia a faccia decisivo. Trasferiti a Kabul i 3 medici italiani fermati in Afghanistan. Ma come anticipato, riprendiamo con la pagina economica, a cominciare dai dati arrivati questa mattina dall'Istat. A febbraio le esportazioni italiane sono aumentate del 7,3% rispetto a febbraio 2009, le importazioni del 12,9%, sempre su base tendenziale. Si tratta dei rialzi più ampi da settembre 2008. Rispetto a gennaio, l'export è cresciuto del 2,5%, l'import del 3,6%. Un altro dato riguarda il lavoro irregolare. Nel 2009 in Italia quasi 3 milioni di lavoratori in nero, solo il 12,2% sono stranieri. E un allarme occupazione arriva oggi dalla Banca Centrale Europea. Nonostante gli ultimi positivi dati economici, la Banca Centrale Europea rimane volutamente cauta sulle prospettive della zona euro. I banchieri centrali si aspettano per quest'anno una crescita moderata dopo la forte recessione del 2009. La sovracapacità dell'industria, un mercato del lavoro sempre debole, peseranno su investimenti e sui consumi. Proprio oggi i principali istituti economici tedeschi hanno pubblicato la loro stima di crescita nella principale economia economia della zona euro e dell'1,5% nel 2010. Nel frattempo, il governo federale sta valutando se allungare i tempi della cassa integrazione alla tedesca fino alla metà del 2012, doveva in origine scadere a fine 2010. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Ad accelerare intanto la Cina, con il PIL cresciuto nel primo trimestre dell'anno dell'11,9%, un dato superiore alle attese degli analisti. Si tratta della più forte crescita dell'ultimo triennio. Ma in Cina in queste ore si lavora ancora nelle zone colpite ieri dal terremoto. Facciamo allora il punto. È salito a 617 vittime il bilancio del terremoto del settimo grado della scala Richter che ha colpito ieri la remota provincia del Qinghai nella Cina centrale sull'altopiano tibetano. Secondo i soccorritori si contano finora 313 dispersi e più di 9.000 feriti, di cui più di 900 in condizioni gravi. Al lavoro, tra le macerie, ci sono 2.000 tra soldati, pompieri e poliziotti, ma i soccorsi sono resi ancora più faticosi dalle condizioni climatiche e dai danni subiti dalle strade. L'epicentro, localizzato nella prefettura a maggioranza tibetana di Yushu, si trova infatti in una zona situata a 4.000 metri d'altezza. Almeno 66 studenti e 10 insegnanti sono morti nel crollo di 3 scuole, un istituto professionale e 2 scuole elementari. Quando il terremoto ha colpito alle 7.50, ora locale, molti di loro si trovavano ancora nei dormitori. Nella cittadina di Jiegu, 100.000 abitanti, la più vicina all'epicentro, circa l'85% degli edifici è crollato, mentre non si riportano danni né all'aeroporto più vicino né alla linea ferroviaria Pechino-Lhasa. Le temperature sono estremamente rigide e, nonostante gli sforzi dei soccorritori, molti superstiti rischiano di passare un'altra notte all'addiaccio. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Lo scandalo pedofilia che travolge la Chiesa, nel pieno della bufera a mobilitarsi sono le associazioni. Al Papa, che domani festeggia il compleanno, il 19, i 5 anni di pontificato, l'associazionismo cattolico dedica una giornata in piazza il 16 maggio. A lanciare l'iniziativa la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, che riunisce 66 associazioni e movimenti laicali cattolici. Tutti in piazza San Pietro, domenica 16 maggio, in segno di solidarietà al Papa. Franco Miano è il presidente dell'Azione Cattolica. Noi ci saremo come Azione Cattolica. Per testimoniare cosa? Prima di tutto il nostro affetto per il Santo Padre, per testimoniare la nostra solidarietà a tutti, prima di tutto alle persone che sono state vittime di abusi, così come il Papa ha fatto con dichiarazioni inequivocabili, ma in particolare per pregare e dire il nostro impegno. La mobilitazione sta attraversando anche la rete e le adesioni stanno aumentando. In piazza San Pietro ci saranno anche i focolarini. Oana Guerrieri ci spiega il perché. In questo momento di dolore per la Chiesa, noi ci uniamo al Papa per tutto quello che lui sta già facendo. Questo momento deve diventare un momento di grande riflessione. Nessuno deve sentirsi escluso. È un momento di preghiera, di richiesta di aiuto anche all'Eterno Padre, perché questo è un fenomeno veramente molto doloroso. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ora che ci porta in Calabria. C'è anche un assessore del comune di Condufuri, un centro in provincia di Reggio Calabria, tra le 26 persone arrestate stamani nell'ambito di un'operazione condotta da polizia e carabinieri contro i presunti affiliati ad una cosca. Si tratta di Filippo Rodà, assessore ai lavori pubblici del comune. Le indagini sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e avrebbero, tra le altre cose, accertato l'incerenza dell''ndrangheta anche nelle elezioni amministrative del piccolo comune svoltesi nel giugno dello scorso anno. In particolare gli investigatori avrebbero accertato che la cosca era riuscita non solo ad inserire la candidatura di un proprio uomo, ma anche a fargli raccogliere un tale numero di preferenze da farlo risultare primo degli eletti, risultato che poi aveva indotto il sindaco, peraltro estraneo all'inchiesta condotta da polizia e carabinieri, a nominarlo assessore ai lavori pubblici. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E parliamo ora di cinema. Il documentario sull'Aquila fuori concorso, in gara Daniele Lucchetti, ecco gli italiani che andranno a Cannes. Sarà il film La nostra vita di Daniele Lucchetti a competere per l'Italia al prossimo Festival del Cinema di Cannes. Nella manifestazione, che che è stata presentata a Parigi, fuori concorso ci sarà anche il documentario sull'Aquila dopo il terremoto di Sabina Guzzanti. Ma a consolidare la presenza italiana, la Croisette, ci saranno anche altri due italiani. L'attrice Giovanna Mezzogiorno e il direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Alberto Barbera, faranno infatti parte della giuria. Una giuria che sarà presieduta dal cineasta americano Tim Burton. E ad aprire le proiezioni il prossimo 12 maggio ci penserà la pellicola Robin Hood di Ridley Scott. In gara poi ci saranno anche il regista giapponese Takeshi Kitano e l'iraniano Kiarostami. Fuori concorso spiccano invece le ultime pellicole di Woody Allen e di Oliver Stone. Igor Fiappi, GR24 Il Sole 24 Ore, Parigi. Spazio dedicato all'arte, Oriente e Occidente, Aquile e Dragone si incontrano a Palazzo Reale a Milano fino al prossimo 5 settembre nella mostra I Due Imperi, quello romano e quello cinese. Oltre 450 capolavori italiani e cinesi provenienti da circa 50 musei. La mostra andrà poi a Roma, uno dei curatori, Stefano De Caro, al microfono di Adriana Fracchia. La mostra nasce nell'ambito di un accordo tra lo Stato italiano e la Repubblica Popolare Cinese. A un certo punto è nata l'idea di fare una mostra di confronto di due civiltà complesse che poi hanno determinato e hanno influenzato profondamente gran parte anche della storia attuale dell'umanità, a cominciare per l'impero romano e per l'impero cinese dal momento della tarda repubblica per Roma, della dinastia Han per l'impero cinese. Abbiamo messo a confronto dei temi, appunto il governo, lo Stato, la religione, la morte, la vita privata, verificando appunto somiglianze e differenze. Tutto questo attraverso i materiali che vengono da una ventina di musei cinesi, da almeno 400 musei italiani, materiali che sono importanti dal punto di vista storico-artistico, ma che soprattutto vogliono essere rappresentativi di questi temi. Le 13:26 minuti, 30 secondi. In regia Carmelo Lauricella, da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione di GR24. Ancora una buona giornata. Vi lascio con Italia in controluce. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.